Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Si avvicinava l'ora in cui la prima colazione continentale comincia, o meglio cessa, il proprio effetto, e le signore acquistarono in una botteguccia del castagnaccio bollente perché aveva un'aria così caratteristica. Sapeva in parte della carta in cui era avvolto, in parte di brillantina, in parte del grande ignoto, ma diede loro la forza di tirare avanti fino a un'altra piazza, ampia e polverosa, in fondo alla quale si ergeva una facciata bianca e nera di incomparabile bruttezza. La signorina Levish l'apostrofò in tono drammatico. Era Santa Croce. Fine dell'avventura. Si fermi un attimo? Lasciamo passare quei due, altrimenti sarò costretta a parlargli. Non posso soffrire i rapporti convenzionali. Che scalogna! E adesso entrano in chiesa. Mancava anche questa. Ah, i bei campioni della Gran Bretagna all'estero. Ieri sera a pranzo sedevano di fronte a noi. Ci hanno ceduto le loro camere. Sono stati infinitamente gentili. «Guardi che sagome!» rise la signorina Levish. «Camminano per la mia Italia come una coppia di mucche. Sarò anche una peste io, ma mi piacerebbe che a Dover i turisti dovessero sostenere un esame scritto e che si rispedisse in patria chiunque non riesca a superarlo». A quali domande vorrebbe che rispondessimo? La signorina Levish posò affabilmente la mano sul braccio di Lucy, quasi a significare che lei almeno avrebbe ottenuto il massimo dei voti. In questo fervido stato d'animo salirono i gradini della vasta chiesa e stavano per entrarvi, quando la signorina Levish si fermò, squittì, gettò in alto le braccia e gridò: «Ecco laggiù la mia tavolozza di colore locale! Bisogna che ci scambi due parole!» E dopo un istante già si allontanava nella piazza, con la cappa militare che sbatteva al vento, e non allentò il passo finché non ebbe raggiunto un vecchio, dalle basette bianche, del quale richiamò l'attenzione affibbiandogli scherzosamente un pizzicotto al braccio. Lucy attese quasi 10 minuti, poi cominciò a seccarsi. I mendicanti la molestavano, sbuffi di polvere le entravano negli occhi, e le venne in mente che una giovanetta non dovrebbe bighellonare nei luoghi pubblici. Scese a passo lento nella piazza, con l'intenzione di raggiungere la compagna, la cui eccentricità era davvero eccessiva, ma in quel momento la signorina Levish e la sua tavolozza di colore locale si mossero anche loro e sparirono in una viuzza, gesticolando copiosamente tutti e due. Lacrime di indignazione spuntarono negli occhi di Lucy, sia perché la signorina Levish l'aveva piantata in asso, sia perché si era portata con sé il suo Baedeker. E adesso, come avrebbe potuto trovare la via del ritorno? Come avrebbe potuto orientarsi in Santa Croce? La sua prima mattinata fiorentina era rovinata, e forse a Firenze lei non sarebbe tornata mai più. Erano passati pochi minuti appena da quando si sentiva così su di morale e parlava come una personcina colta e aveva quasi convinto se stessa di possedere una dose considerevole di originalità. Ora entrò nella chiesa umiliata e depressa, senza neppure riuscire a ricordarsi se l'avevano costruita i francescani o i domenicani. Naturalmente doveva essere un edificio meraviglioso, ma come rassomigliava a un granaio e quanto era freddo! Naturalmente conteneva affreschi di Giotto e in presenza dei valori tattili di simili capolavori, Lucy si sapeva in grado di provare i sentimenti appropriati. Ma quei capolavori, chi le avrebbe indicato quali erano? Si mise a girare con piglio sprezzante, restì a entusiasmarsi davanti a monumenti di incerta paternità e datazione. Non c'era nessuno, neanche per dirle qual era, fra le tante lapidi tombali che pavimentavano la navata e i transetti, quella di autentica bellezza, quella che il signor Ruskin aveva lodato più di ogni altra. Poi la malia perniciosa dell'Italia agì su di lei. E invece di acquistare cognizioni, Lucy cominciò a essere contenta. Osservò i turisti. Avevano il naso rosso come i loro Baedeker, tanto era gelida la basilica. Assisté all'orribile fato che colse tre minuscoli papisti, due maschietti e una femminuccia, i quali iniziarono le rispettive carriere aspergendosi a vicenda d'acqua benedetta per poi dirigersi verso il monumento funebre del Machiavelli, gocciolanti ma santificati. Muovendo da distanze immense a passo di lumaca, giunsero al traguardo, toccarono la pietra con le dita, coi fazzoletti, con le teste, dopodiché indietreggiarono. Che mai poteva significare quell'operazione? La ripeterono più volte. E alla fine Lucy capì che avevano scambiato il Machiavelli per un santo e speravano di pervenire alla virtù mediante il prolungato contatto col suo sepolcro. Il castigo non tardò ad arrivare. Il minore dei tre incespicò su una delle pietre tombali tanto ammirate dal signor Ruskin e rimase coi piedi incastrati nelle fattezze di un vescovo supino. Malgrado fosse protestante, Lucy si precipitò avanti, ma troppo tardi. Il piccolo cadde pesantemente sopra le piote ritte del prelato. «Esecrabile vescovo!» esclamò la voce del signor Emerson, che si era precipitato avanti anche lui. «Duro in vita, duro in morte. Esci alla luce del sole, bambino, e buttagli un bacio, giacché è al sole che dovresti stare, intollerabile vescovo!» Il piccolo cacciò una serie di strilli frenetici, sgomento da quelle parole e da quelle orribili persone che lo raccattavano da terra, gli toglievano la polvere di dosso, gli pulivano le ammaccature e gli ingiungevano di non essere superstizioso. «Lo guardi», disse il signor Emerson a Lucy, «edificante spettacolo. Un bambino ferito, gelato e spaventato, ma cos'altro possiamo aspettarci da una chiesa?» Le gambe del bimbo parevano diventate di cera liquefatta. Ogni volta che il signor Emerson e Lucy lo tiravano su, crollava emettendo un ruggito. Per fortuna venne in suo soccorso una signora italiana che avrebbe dovuto essere assorta in preghiera. Grazie a qualche virtù misteriosa che posseggono soltanto le madri, irrigidì la spina dorsale del figlioletto e impartì forza ai suoi ginocchi. Il piccolo rimase in piedi e, sempre balbettando per l'agitazione, si allontanò. «È una brava donna, lei», disse il signor Emerson. «Ha fatto più di tutte le reliquie del mondo messe insieme. Io non appartengo alla sua fede, ma credo fermamente in coloro che provvedono al benessere dei loro simili. Non esiste uno schema dell'universo...» Si interruppe in cerca dell'espressione adatta a completare il pensiero. «Niente», disse la signora italiana, e tornò alle sue orazioni. «Dubito che capisca l'inglese», osservò Lucy. Avvilita com'era, non disprezzava più gli Emerson. Aveva deciso di mostrarsi benevola verso di loro, con bellezza piuttosto che con delicatezza del tratto, e se le fosse stato possibile di cancellare la dubbia cortesia della signorina Bartlett mediante qualche garbata allusione alle camere accoglienti. «Quella donna capisce tutto», fu la risposta del signor Emerson. «Ma lei cosa ci fa qui? Sta visitando la chiesa o ne ha già avuto abbastanza?» «No», gridò Lucy, ricordando l'affronto subito. «Ci ero venuta con la signorina Levish, che doveva spiegarmi tutto, ma eravamo appena arrivate alla porta. Questo è troppo. Che lei è scappata via per conto suo e, dopo aver aspettato un bel po', mi sono vista costretta a entrare da sola.» «Perché non avrebbe dovuto farlo?» domandò il signor Emerson. «Già, perché non avrebbe dovuto venirci da sola?» disse suo figlio, rivolgendosi direttamente a Lucy per la prima volta. «Ma la signorina Levish si è portata via anche il Baedeker.» «Il Baedeker», ripeté il signor Emerson. «Sono lieto che sia questo il motivo del suo cruccio. Vale la pena di crucciarsi per avere perso un Baedeker. Questo sì che è un sufficiente motivo di crucciarsi.» Lucy rimase sconcertata. Sentiva che un'altra idea nuova le stava spuntando nella mente e non era sicura dove l'avrebbe condotta. «Se non ha il Baedeker, farà bene a restare con noi», osservò il figlio. Era qui dove l'avrebbe condotta l'idea? Lucy cercò rifugio nella dignità. «Le sono infinitamente grata, ma non è neppure il caso di pensarci. Spero non vi immaginiate che sono venuta per imporvi la mia compagnia. L'ho fatto soltanto per dare una mano col bambino e per ringraziarvi di averci ceduto così gentilmente le vostre camere ieri sera. Mi auguro di non avervi procurato troppo disturbo. Mia cara, rispose bonariamente il vecchio, credo che lei stia ripetendo cose che ha sentito dire da persone anziane e finge di essere permalosa, ma in realtà non lo è. La smetta di fare tante storie e mi dica piuttosto quale parte della chiesa desidera vedere. Sarà un vero piacere per noi accompagnarcela. Lucy non riuscì a stizzirsi. Il signor Emerson era vecchio e a una ragazza era sicuramente lecito assecondarlo. D'altro canto, il figlio era giovane e le parve che una ragazza avrebbe dovuto mostrarsi offesa con lui o comunque mostrarsi offesa davanti a lui. E fu su di lui che fermò lo sguardo prima di ribattere: spero bene di non essere permalosa. Sono gli affreschi di Giotto che desidero vedere, se volete avere la compiacenza di indicarmeli. Il giovane assentì. Con aria di cupa soddisfazione la guidò verso la cappella Peruzzi. C'era un che del maestro di scuola in lui. Lucy si sentì nei panni di una scolaretta che avesse risposto correttamente a una domanda. La cappella era già occupata da una zelante congrega e ne emergeva la voce di un oratore che le illustrava il giusto modo di venerare Giotto, non già a mezzo dei valori tattili, ma secondo i criteri dello spirito. «Ricordate i dati concernenti questa chiesa di Santa Croce», egli stava dicendo, «come fu edificata dalla fede nel pieno fervore del medievalismo prima che affiorasse la minima contaminazione rinascimentale». Osservate come in questi affreschi, oggi purtroppo rovinati dai restauri, Giotto sia rimasto indenne dalle insidie dell'anatomia e della prospettiva. Può esservi qualcosa di più maestoso, di più patetico, di più bello, di più verosimile? Di che scarso ausilio, si noti, risultano la cultura e la competenza tecnica di fronte a un uomo capace di sentire sinceramente? No! Esclamò il signor Emerson a voce alta, troppo alta per un luogo sacro. Non ricordate nulla di tutto questo, edificata dalla fede, figuriamoci. Ciò significa soltanto che gli operai non furono pagati adeguatamente. Per quel che riguarda gli affreschi, poi, io non ci vedo un briciolo di verosimiglianza. Guardate, quel grassone vestito di blu deve pesare almeno quanto me e sta filando in cielo come una mongolfiera. Il signor Emerson si riferiva all'affresco dell'Ascensione di San Giovanni. Nell'interno del gruppo, la voce dell'oratore finì in un balbettio, come era più che giusto. Gli ascoltatori si scostarono imbarazzati e Lucy li imitò. Sapeva per certo che non avrebbe dovuto stare assieme a quei due, ma l'avevano stregata. Erano così gravi e così strani che non riusciva a rammentare il modo appropriato di comportarsi. Insomma, il fatto accadde o non accadde? Sì o no? Giorgio rispose, accadde così, ammesso che sia mai accaduto. Io preferirei salire in cielo per conto mio, invece di venirci sospinto dai cherubini. E se ci arrivassi, mi piacerebbe che i miei amici si spenzolassero da lassù, proprio come fanno questi. Toglitelo dalla testa, disse suo padre. Tu e io, figlio caro, giaceremo in pace sotto la terra che ci ha generati e i nostri nomi scompariranno come è certo che sopravvivrà il nostro operato. Alcuni di quei personaggi possono vedere solo la tomba vuota, non già il santo, chiunque esso sia, mentre va in alto. Accadde proprio così, ammesso che sia mai accaduto. Chiedo scusa, disse una frigida voce. La cappella è un po' piccola per due comitive, non vi disturberemo più a lungo. L'oratore era un ecclesiastico, e il suo pubblico doveva essere anche il suo gregge, poiché ciascuno aveva fra le mani il libro delle preghiere, oltre alla guida. Uscirono dalla cappella in silenziosa sfilata. «Fermatevi!» gridò il signor Emerson. «C'è spazio in abbondanza per noi tutti, fermatevi!» La processione scomparve senza far parola. Presto si udì nuovamente la voce dell'oratore che descriveva la vita di San Francesco nella cappella attigua. «George, credo proprio che quel prete sia il curato di Brixton». George entrò nella cappella e ritornò dicendo «Forse è lui, non lo ricordo. In tal caso sarebbe bene che io gli parlassi e gli rammentassi chi sono. Sì, è il signor Eager. Ma perché se n'è andato? Forse perché parlavamo troppo forte? Che disdetta. Vado a fargli le nostre scuse, non ti sembra giusto? Allora può darsi che torni». «Non tornerà», affermò George. Ma il signor Emerson, contrito e insoddisfatto, uscì in fretta per scusarsi presso il reverendo Cuthbert Eager. Lucy, apparentemente assorta nella contemplazione di una lunetta, sentì la concione interrotta da capo, la voce ansiosa aggressiva del vecchio, le repliche secche risentite del suo avversario. Il figlio, per il quale il minimo contrattempo equivaleva a una tragedia, stava in ascolto anche lui. «Mio padre ottiene quasi sempre questo effetto», annunciò a Lucy. «Si sforza di compiacere al prossimo». «Ognuno di noi si sforza di farlo, spero bene», disse la ragazza sorridendo nervosamente. «Perché crediamo che serva a migliorare il nostro carattere. Ma lui si dà pena per gli altri perché li ama. E gli altri lo scoprono e si offendono o pigliano paura». «Come sono sciocchi», esclamò Lucy, pur simpatizzando con loro in cuor suo. «Io penso che una buona azione compiuta con tatto...» «Tatto!» George gettò indietro la testa in una mossa sprezzante. A quanto sembrava, gli aveva risposto a sproposito, e Lucy si mise a osservare quell'essere bizzarro che misurava la cappella a grandi passi. Per un uomo così giovane aveva una faccia tormentata, e quando non vi calassero sopra le ombre, dura, ma appena ne fosse velata, la pervadeva la tenerezza. Lucy lo avrebbe rivisto in un'altra circostanza a Roma, nella volta della Cappella Sistina che portava un cesto di ghiande. Sano e forzuto com'era, le diede non di meno un senso di grigiore, di tragedia che potesse risolversi solo nella notte. Quel senso passò fugacemente. Non era da lei concepire qualcosa di così astruso. Nato dal silenzio e da un'emozione ignota, si dileguò all'arrivo del signor Emerson e Lucy poté rientrare nel mondo dei rapidi discorsi, l'unico che le fosse familiare. «Sei stato insolentito?» chiese tranquillamente suo figlio. «Ma abbiamo guastato il piacere di chissà quante persone. Non torneranno qui di sicuro». «Colmo di innata comprensione, prontezza nell'intuire il bene nei propri simili, visione dell'umana fratellanza», frammenti della conferenza sul San Francesco giungevano fluttuando intorno al muro divisorio. «Evitiamo almeno di guastare il suo piacere», proseguì il vecchio rivolgendosi a Lucy. «Ha già visto quei santi?» «Sì, sono splendidi», rispose la ragazza. «Sa dirmi qual è la lapide segnalata da Ruskin?» Il signor Emerson non lo sapeva e propose che tentassero di indovinarlo. George, con certo sollievo di Lucy, si rifiutò di muoversi e lei e il vecchio girellarono abbastanza piacevolmente per Santa Croce, che, malgrado somiglia a un granaio, custodisce una messe di cose belle dentro le sue mura. Occorreva per giunta difendersi dai mendicanti e schivare i ciceroni scantonando dietro le colonne. C'era anche una vecchia signora col cane e qua e là un prete che sgusciava verso la sua messa, fendendo pudicamente i gruppi di turisti. Ma il signor Emerson prestava scarsa attenzione a tutto questo. «Perché il mio ragazzo continua a guardare quell'affresco?» domandò turbato. «Io non ci trovo nulla di speciale». «A me Giotto piace», rispose Lucy. «È così straordinario quello che si dice dei suoi valori tattili, anche se preferisco altre cose, per esempio i putti dei Della Robbia». «E fa bene. Un bimbo piccolo vale una dozzina di santi, e il mio bimbo vale il paradiso intero, mentre a quanto mi consta vive nell'inferno». Lucy si sentì nuovamente a disagio. «Nell'inferno», ripeté il vecchio. «Mio figlio è infelice». «Per carità», disse Lucy. «Come può essere infelice dal momento che è forte e vivo? Cos'altro si dovrebbe dargli? E pensi a come è stato allevato, immune da tutta la superstizione, da tutta l'ignoranza che spingono gli uomini a odiarsi reciprocamente in nome di Dio. Con una simile educazione, ero convinto che fosse destinato a crescere felice». Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.